24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Il porcellum, praticamente la gente che è qua era un po', scusi il termine poetico, un paraculo. Con questo rimaniamo solo che quelli che arriveranno avranno solo culo, cioè fortuna. Grazie. Sì, magari si potrebbero usare parole anche più appropriate. La stessa Laura Boldrini di fronte al leghista Buonanno, quello che si è vestito tutto di bianco col giubbino da domatore. In solidarietà delle donne vestite di bianco, ma avete sentito? Sì, ecco, magari dal paraculo al culo, ecco, si potrebbero utilizzare, però non era neanche, come dire, non è riuscita a contrastare con la solita verve, perché, come dire, effettivamente il paragone non ci sta mai, dal paraculum al culum, dal paraculitalicum, insomma, vabbè, quella roba lì. Comunque forse oggi ci siamo, forse oggi si vota alla Camera, state attenti che poi c'è il voto al Senato della legge elettorale che varrà solo per la Camera. Non è che vi voglio far venire il mal di testa alle 6:34 minuti, però questo è. Forse oggi si vota, anzi sicuramente dovrebbe votarsi definitivamente l'approvazione della legge elettorale alla Camera, poi il Senato. E lì i numeri sono un po' risicati, anche perché alla Camera già ieri è successo qualche inghippo per il Partito Democratico. Buongiorno comunque, alle 6:34 minuti, questa è 24 mattino. C'è Miriam Lucchetti in redazione, c'è il nostro alpino Peter Bescapè in regia, c'è il Parlamento ormai aperto, con la nostra Nicole Minetti che offre il caffè. Il caffè volentieri a tutti quanti. Come sempre c'è la nostra Paola Saluzzi, buongiorno. Ma buongiorno, con una voglia ogni tanto di cambiare pianeta quando senti queste cose che... Perché? Per un attimo, spazio 1999, galassia. Perché? Perché? Poi torni sulla Terra. Ti prende un momento di sconforto planetario, poi però si ritorna. Ma hai sentito che anche la Boldrini non era così? Per sfinimento, ha detto. Per sfinimento. Non sapeva come replicare, ecco, di fronte. Deduco veramente rimasta, per sfinimento, però andiamo avanti. È rimasta sorpresa. Buongiorno, Lino. Buongiorno. Tutti. Buongiorno, buon mercoledì. Anche al nostro direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Buongiorno. Oh, buongiorno. Eccolo qua. Ci seguiamo su Twitter finalmente. L'abbiamo certo, visto, certo. Sono Luca Dini. Finalmente potete insultarlo lì. Esatto. Ma se ci mandiamo loro invece nell'altra galassia, allora ecco anche. Insomma, questo Buonanno noi l'abbiamo trovato così. L'abbiamo trovato così spassoso invece questo inizio. Vabbè, allora sentiamo subito Brunetta. Che così voglio dire. Vedi Luca, lo so. Un Brunetta al giorno migliora l'umore sempre. Comunque Brunetta che riprende la Presidente della Camera. Signora Presidente, io le chiedo, perché non ha richiamato il deputato Di Battista quando ha definito delinquente il Presidente Berlusconi? Lei con questo suo comportamento si comporta in maniera assolutamente inadeguata dal punto di vista morale nei confronti della gestione di questa assemblea e pertanto io richiamo lei a non usare due pesi e due misure. Luca, hai sentito che io richiamo signora lei, signora, perché la Boldrini ha il potere di richiamare all'ordine e quindi Brunetta si è sentito, perché insomma è stato definito delinquente Berlusconi e quindi hai capito, caro il direttore? Diciamo che, come dire, l'etimologia, c'è una condanna, quindi voglio dire delinquere, non lo so. Vabbè, comunque, ma tra l'altro no, ecco, è che sembrava veramente signora maestra, è stato prima lui, sembrava un po' quella cosa lì. Eccolo lì. E vabbè, ma d'altronde ieri alla Camera sono volate parole. Tra l'altro la frase era questa che aveva fatto arrabbiare Brunetta, quella di Di Battista, no? Quella che aveva definito, quando ha definito Berlusconi delinquente. Se c'è ancora un'antichietta di anti-berlusconismo all'interno del Partito Democratico, vi imploriamo di non dire sempre no, ma di votare questo emendamento per il ritorno alle preferenze e di fregare, grazie alle preferenze, il delinquente Berlusconi. Ce la possiamo fare, eccoli. Non dite sempre no. Cara Saluzzi, era questa la frase che ha fatto infuriare Brunetta. Vabbè, ma succede, succede alla Camera. Ieri sera sono andata dalla mia, peraltro, assidua ascoltatrice di 24 Mattina, la mia meravigliosa farmacista Federica, a chiedere un ricostituente. Salutiamo Federica. Federica, Federica, se ci può mandare un po' di ricostituente a tutti. Sì, no? Sì, ginseng, un po' di ricostituente, perché ne abbiamo bisogno in questo tempo in cui dobbiamo commentare, ricommentare, stracommentare, giustamente, è il nostro lavoro, è la nostra fortuna, questa situazione che troverà una sua naturale ricollocazione per il bene del paese. Sì, e qui mi metto sulla sedia, alzo la bandiera, eccola lì la patriottica Saluzzi. Oh, ma d'altronde quando c'è il dibattito, che c'è Luca? Quando c'è il dibattito parlamentare volano parole, no? Sì, grosso, direttore. No. Però volevo dire, ma chiedevano ieri di votare le preferenze a genere alternato, no? Uomo e donna. Sì. E il giorno prima avevano affossato le quote rosa anche loro. Cioè, vorrei capire. Ma questa delle quote rosa, perché sai, il timore adesso è che le donne parlamentari, per usare un eufemismo, si incazzino. E al Senato i numeri sono anche risicati, non è che si può scherzare più di tanto. Insomma, diciamo che la situazione non è così fluida sulla legge elettorale. Poi, per chi segue le questioni parlamentari lo sa. Ieri sono passati degli emendamenti per maggioranze di 20 voti, più o meno. Sì, ma al Senato non c'è il voto segreto, però. Quindi lo so. Esatto. Però diciamo che si vedrà. Allora, stanno correndo dei rischi, mettiamola così. Esatto. Cara Paola Saluzzi, visto che hai detto che ci vuole un ricostituente, io vorrei rendere noto l'ultima spesa alla provincia autonoma di Bolzano. Spese loro, soldi nostri. Sai l'ultima che cosa si sono comprati? Lo dici tu? Vabbè, se vuoi lo dico io. Un vibratore! Signor Benedetto, un vibratore! Ora tu, essendo giornalista, saprai quanto costerà un vibratore. Quanto costa? Più o meno, secondo te? Allora, la domanda è volata ieri lungo la redazione di Sky pomeriggio. I più solerti hanno preso nota immediatamente via internet, nota che giri che sto facendo. Sì. 25 euro! 25 euro! 64! Cosa aveva? I brillantini, gli Swarovski? Cosa aveva? Il vibratore a spese nostre! Ora, spese ovviamente, nostre. Sdegnati rispondono. Di tra chi? Di chi? In che senso? No, perché? Detto alla siciliana, perché? Perché? Perché? Che notoriamente a Bolzano vuol dire perché? Caro Luca Dini, tu che sei direttore, e quindi giornalista e direttore, saprai benissimo il costo dei vibratori, più o meno, insomma, avrai fatto inchieste su questo, no? No, però su quello avrei detto che a Nederli. Comunque 25,95 euro. Ora ovviamente dicono: se è finito lo scontrino lì dentro è stato un errore, nessuno di noi si è fatto rimborsare giochini erotici, ma ormai è addirittura l'apertura del Quotidiano Nazionale, com'è che è il titolo? Rimborsi a luci rosse. Ma ci mancava questa, Paola Saluzzi. Ma non è finita. Oggi sul Fatto Quotidiano c'è l'intervista a un assessore, vicepresidente della regione Abruzzo, che ha speso 202 euro per un pasto e 500 euro alle terme per un weekend, e lui risponde: ma io sono l'assessore al termalismo. Ma basta. Ma basta. Allora, voglio il ricostituente della termacista Federica. Basta. Ribadisco, serve, perché le mani sul volante non bastano più. Esatto, lo so. Ogni tanto quelle sul vibratore, per carità, devo dire che chiunque abbia un po' di spirito si butta per terra da ridere, insomma, e poi dopo dice un momento, ma appunto sono spese personali, deduco, no? Sì, sì. Indipendentemente dall'uso che se ne voglia fare, sono spese personali, punto. Ma che assessore era? Pari opportunità, non lo so. Quello del termalismo è il vicepresidente della Regione Abruzzo. Questa della di... Tra l'altro, la questione del vibratore, non è che voglio insistere, ma è che adesso era colui che è venuto qui ai nostri microfoni della regione, della provincia autonoma di Bolzano, Pius Leitner, cioè quel partito lì che per me è impronunciabile, che è Freiheitlichen, ecco, lì credo si pronuncia. Così. E quel partito lì che ovviamente dice: noi abbiamo sempre fatto una campagna contro le spese, quindi adesso denunciamo chiunque sostenga che abbiamo speso questa cosa per il vibratore. Caro Luca Dini, ci sarà un punto finale a questa vicenda e quale? A queste vicende che si accumulano giorno dopo giorno? Sarebbe da dire, magari insomma, abolire un po' di cose, qualche regione a statuto speciale, qualche provincia, qualcosa, insomma, per esempio. Questo si potrebbe fare, per esempio, invece di leggere tutte le volte queste cose. Allora, io però adesso voglio introdurre un argomento molto, molto delicato, sul quale so che Luca Dini ieri ha parlato, ha scritto, anche ha twittato, la questione delle baby escort ai Parioli. Allora, avete visto la notizia che oggi viene rinforzata sui giornali dell'avviso di garanzia e dunque dell'indagine nei confronti del marito di Alessandra Mussolini. Qui ecco la questione è come trattarla, Paola Saluzzi, perché la notizia diventa incredibilmente che finisce sui giornali Alessandra Mussolini per un'indagine, peraltro un avviso di garanzia al marito che avrebbe contattato, il cui telefono è stato trovato nel cellulare di queste baby escort e sarebbe stato anche riconosciuto oggi, racconto dei giornali, dalle foto, dalle stesse protagoniste. Come trattare questa cosa? In punta di piedi, perché è tutto delicato, perché è tutto da trattare con grandissima delicatezza. Quindi sono quegli argomenti e quegli elementi in generale, chiunque vadano a toccare come soggetti, che fanno parte chiaramente di un'indagine, quindi dalla quale deve venire fuori la verità, perché non è che queste ragazzine si siano inventate la cosa, però con la massima cautela. Mi fermo qui, cioè massima cautela. Però perché, la questione è dare la notizia, ovviamente i giornali hanno dato la notizia, e però la questione è... L'importante è che ci sia la notizia e i giornali lavorano per questo. No, ma questo certamente, però a me fa specie vedere i titoli, non so se Luca Dini, tu da direttore, insomma, come ti comporteresti, indagato, cioè il marito della Mussolini diventa inevitabilmente protagonista l'onorevole Mussolini, che in questo caso non c'entra nulla, e anzi si viene sbattuta sui giornali per una vicenda che riguarda il marito, Luca. È caso è partenente. Anche tre figlie, voglio dire, per carità, uno può trovarla simpatica o meno, però c'è un di più di Livore che ho trovato fuori luogo. No, tra l'altro il Corriere ricorda come nel gennaio 2010, quando lei era presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, si era anche battuta in maniera molto tenace contro il reato di pedofilia culturale e contro il grooming, cioè l'adescamento in rete. E pensare che proprio queste ragazzine hanno iniziato così, insomma, ad escare i loro clienti nella rete. Insomma, è una vicenda sì, molto... Sarebbe un paradosso proprio, sì, totale, insomma. Molto, molto delicata, ribadisco. Credo che tutti e tre la pensiamo nello stesso modo. Poi siamo sempre in linea con chi ci ascolta. Dico, siamo nella maniera più affettuosa possibile, via Twitter, via tutto. Però, ha detto bene il direttore Dini, ci sono tre figli. E c'è una verità da accertare, però tutto deve essere fatto con la stessa cura con la quale vengono trattati altri nomi che per esempio non sono ancora stati resi pubblici. Noti. No, ma è chiaro, no? Perché ce ne sarebbero anche altri clienti VIP. Comunque andiamo alle informazioni sul traffico, ne entriamo subito dopo. 24 mattino. Io alle prossime elezioni vo al mare. Matteo, al solo e primo obiettivo che tu non realizzi, alla prima panzana che hai detto, in questa porcheria che hai fatto, ti tiri fuori le mani dalla tasca, ti noleggi la tua Giulietta e te ne torni a casa senza la scorta. Per l'ennesima volta ho visto una riunione di Forza Italia con il Berlusconi. C'erano decine di bellissime ragazze. Alessandro, te lo dico in dialetto del Polesine, rodigino. Ma se gli ha una testa grossa, quattro pei, le scuola in cora, la testona, un corpo se fa partire quadrato, due gambe lunghe un metro e un cazzo, e può anche storte. Cosa che piace a ste donne? Governo italiano ti ringrazio che per pisciare non si paga dazio e se faccio una bella pagata non ci vanno foglie di carta bollata. Cri, cri, cri, sei il solito cretin. Lezione numero uno. Matteo, devi dire qualcosa di sinistra. Non so da quanti anni sento dire dei politici una frase che mi fa veramente emozionare. Abbiamo fatto delle scelte anche sicuramente dolorose, ma per il bene del paese. Va bene, oggi era meglio della segreteria telefonica. Abbiamo avuto dei problemi, hackeraggi, cose strane, ma la segreteria telefonica per una qualche ora ha avuto dei problemi, ma adesso è ripristinata. Potete chiamare, potete dire la vostra, cara Paola Saluzzi, noi la mettiamo in onda e che c'è? E noi seguiamo, sentivo così le dichiarazioni. Senti Paolo, molto singolari. Ho un messaggio per te, da Giacomo. Giacomo scrive: Giacomo, ciao Paola, voglio essere il tuo cagnolino personale. Ma Paola Saluzzi ama i gatti, ama i gatti, è una gattara. Ma anche i cani. Sì, però è più una gattara. Quindi... Sono gattara e sì, ma anche ovviamente animali tutti, però prevalentemente gattara. C'è Caterina qui accanto a me che con aria molto compita segue tutta la trasmissione. Caterina, sì, il gatto, sì, caro, sì. Giacomo, grazie. Bau, ecco, bah, io non so. Niente, mentre un altro ascoltatore ci scrive: ho uno studio di video chat in Romania, inizia così, è pericolosissima, ci sono vibratori da 100 euro, quello da 25 è robaccia. Non so, questo lo diremo assolutamente, lo faremo presente ai nostri, a chi ieri con molto solenne tra i miei amici colleghi ha detto 25 euro alzando la voce. 25, caro Lucadini, bene. Hai visto? Robaccia, insomma, pure robaccia si sono comprati. Pure robaccia. Allora, io ho qui la copertina di Vanity Fair, però la devi spiegare tu, caro Luca, perché Hollywood bianco e nero ci sono delle star, Julia Roberts la riconosco anch'io, George Clooney lo riconosco anch'io, poi senza leggere la didascalia, uno è il protagonista di 12 anni schiavo, straordinario film che ho visto, e lo pronunci tu? Ci vuoi te leggio fuori. Vedete. Qualcosa del genere. No, ci sono tutte le consonanti al posto giusto. E poi chi c'è? Idris Elba. Mandela. È quello che ha fatto Mandela. Perché hai fatto questa copertina bianco nero Hollywood? Ma poi continua perché è pieghevole. Sono 12 attori di cui 6 fantastico. Neri. Tra cui Lupita Nyong'o che è la premio Oscar per 12 anni schiavo. Vabbè, insomma, giustamente è Hollywood, no? In bianco e nero. E c'è un testo molto bello di lei che parla con molta franchezza di quando era ragazzina e si sentiva brutta proprio perché non aveva la pelle bianca. È un tema interessante. Soprattutto sì, credo soprattutto in America è un tema molto dibattuto. Ma quello che mi ha colpito di più è il servizio che avete fatto su Ilaria Alpi, o meglio, effettivamente ti ricordi Paola, si dice sempre Ilaria Alpi era con l'operatore Miran Hrovatin, sì. No? Miran Hrovatin. Giustamente su Vanity Fair avete intervistato il figlio di Miran Hrovatin che dice non era solo l'operatore, era mio papà, e viene sempre ricordato così, no? Come l'operatore Miran Hrovatin, no? Esatto. E invece... L'altra storia, il dimenticato, diciamo. Il dimenticato, quindi è ucciso in Somalia. Queste sono le due cose che mi hanno colpito, Paola, oggi. Però diciamola tutta, sì. È uno dei motivi, e lo dico da lettrice, per cui si ama il Vanity Fair di Luca Dini. Ecco, i violini. No, violini quanti volete, perché vai da Bianchinello di Hollywood e non si dimentica mai di quelli che generalmente vengono impropriamente dimenticati. Oh, quindi studiare. Caro il mio alpino, com'è romantico di prima mattina. Vabbè, vogliamo sentire Crozza, che ieri ha fatto molto sorridere. Crozza, voi non l'avrete visto, eccolo qua. Oggi è passata la legge elettorale, domani abbassa le tasse, da venerdì col Job Act c'è lavoro per tutti. Ma cosa state a fare lì? Entro sabato finisce la TAV, la scava lui direttamente con le mani nude mentre i bambini cantano la canzone dei sette nani. Scavare, andiamo. Domenica dovrebbe fare, credo, la quarta corsia sulla Salerno, Reggio Calabria, e lunedì nel tardo pomeriggio, verso le 6:15, credo, sconfigge la mafia. La mafia potrebbe slittare anche a martedì, perché c'è ancora un po' di resistenza in Parlamento, però, cioè, basta, ha fatto tutto. Ma cosa ci fate ancora lì? Caro Luca, e questo ovviamente è Matteo Renzi, ma è davvero così? Non ne abbiamo parlato, oggi c'è un questione di misti importantissimo. È davvero così questa sensazione? Cioè, faccio tutto io, faccio, però almeno ha l'entusiasmo, oppure si arenerà nella palude romana? Beh, insomma, qualcosina un pochino più velocinamente lo sta facendo, mi pare, no? Sì, e poi vediamo, però la sensazione è questa, che siano l'uomo solo al comando, pronto a fare tutto. Paola, di questo parlerete ovviamente, no? Voi che farete? Di questo parliamo, continuiamo a parlare oggi al pomeriggio di Sky, legge elettorale Uber Alles. Domani parliamo anche di un grande fatto che ci è capitato a tutti. Papa Francesco, un anno, volevo dire. Domani è un anno che quel signore ci ha detto buonasera. E diciamo che le cose, per quanto brutte in circolazione, con quel signore a San Pietro, vestito di bianco, insomma, abbiamo un punto di riferimento. E non è Matteo Renzi, no? No, perché magari poi da lunedì fa anche il Papa. Va bene, dai, ci fermiamo così e vi ringrazio. Paola Saluzzi alle 15, Sky TG24 pomeriggio, e Luca Dini, direttore di Vanity Fair, nuovo numero che trovate in edicola da oggi. Posso dire una cosa? Dilla, sì. Alle 9:30 di questa mattina, sì. Rai 1, 1 mattina, Wandy. Fate pubblicità. Va bene. Ciao. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:17 minuti, razza di debosciati, come vi chiamo io affettuosamente, sappiate che il Papa si sveglia alle 4:30, alle 4:30, alle 4:30, e voi che fate? Come il nostro alpino, Peter Bescapè, alle 4:30, si svegli come il Papa, e quindi forza, andate a produrre! Allora, oggi parleremo, il gran giorno, Renzi dice taglio le tasse, eccetera. Oggi avremo ospiti due esponenti politici che non sono in Parlamento, hanno una visione certamente di partenza diversa, quasi forse agli antipodi possiamo dire. Sono Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista e Santo Versace, che è diventato da due giorni presidente di Fare per fermare il declino, e ovviamente anche imprenditore. Avremo ospiti loro alle 8:15 a capire cosa ne pensano di quelle che sono le ricette anche sui giornali di Matteo Renzi. Andiamo a leggerle a proposito sui giornali. In questo mercoledì 12 marzo i titoli, Sole 24 Ore, Renzi, ho i soldi, vado avanti. Questo è il titolo di prima pagina, mentre il Corriere della Sera, sconto fiscale in busta paga. Apre così La Stampa, invece, Renzi, meno tasse da aprile. Per Il Messaggero, Renzi, taglio IRPEF in busta paga. E poi l'altra grande notizia è la questione della legge elettorale. Repubblica,

anche ieri a un certo punto, sbottando, ha detto: basta con questa storia delle coperture, chi dice che non ci sono i soldi? Io i soldi li ho, e non sono 10, bensì fino a 20 miliardi di coperture, 10 comunque subito a disposizione per tagliare le tasse. Oggi, dopo il Consiglio dei Ministri, ha detto alle 17 farà una conferenza stampa. Soprattutto Renzi se l'è presa con i frenatori. Chi sono questi frenatori? Basta i frenatori delle coperture. Secondo Repubblica ce l'ha con i tecnocrati, non certo con Padoan, cioè il ministro con il quale c'è grande sintonia, ma la tecnocrazia. Solo che questi tecnocrati di Stato si sono trovati ora due sindaci di fronte, io e Del Rio. E sappiamo come vanno queste cose, dunque le furbizie non le possono fare, il gioco delle tre carte è finito. Ce la farà Matteo Renzi? E che cosa vi aspettate, cari italiani, da questo Consiglio dei Ministri che promette di dare più soldi in busta paga? Ormai pare questa la scelta, tagliare le tasse per 10 miliardi destinate al taglio dell'IRPEF. Ne parliamo con due esponenti politici che certamente hanno una formazione e delle idee di base quasi potrei dire agli antipodi. Sono uno un imprenditore, presidente a Gianni Versace S.P.A. e anche presidente da qualche giorno di Fare per fermare il declino. Santo Versace, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi, grazie. Saluto poi Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione Comunista. Buongiorno e ben ritrovato Ferrero, eccoci. Buongiorno, salve. Allora, intanto Versace, chi sono i frenatori secondo lei? Chi sono questi tecnocrati con cui ce l'ha Renzi? Sono, fra i frenatori ci mettiamo tutta la burocrazia dei vari ministeri che sono praticamente per molto tempo sono stati i veri padroni della politica, e poi ci mettiamo fra i frenatori quel 1.100.000 persone che secondo il sindacato UIL, ma anche secondo me e tanti altri che hanno studiato, vivono di politica con redditi nettamente superiori a quanto dichiarato, grandi evasori fiscali e grandi corrotti. Questi sono i frenatori. Principalmente, non i soldi. Però credo che ce l'abbia soprattutto con quelli all'interno del ministero. Cioè, mi sembra di capire così, no? Perché chi dice che non abbiamo le coperture? Ecco, com'è possibile? Lei, che tra l'altro è abituato, voglio dire, governando anche un'azienda, a fare i conti, com'è possibile sapere se le coperture no, non ci sono? Sì, ci sono 10 miliardi, no, ne ho 20. È davvero così improba la gestione delle casse di uno Stato? Ma assolutamente, noi dobbiamo pensare che soltanto a guardare le spese fuori controllo di regione, comune e provincia, in 20 anni hanno aumentato le spese di 600 miliardi, la roba allucinante all'anno, cioè la roba che, cosa, se guardiamo la sanità, cioè, giustamente i servizi vanno migliorati, i redditi bassi vanno alzati tutti, perché così non si può andare avanti, altrimenti l'economia sta ferma, però non si può accettare sperperi, corruzione, ruberie varie in tutti gli enti istituzionali, comune, provincia, regioni, Stato, ministeri, in tutti, e anche quelli parastatali, se va alle camere di commercio, se va in qualunque posto ci sono sprechi enormi, colossali, che se la magistratura lavorasse a tempo pieno e avesse più mezzi, vedere quello che appare è la punta dell'iceberg, neanche l'1% di quello, sì, che realmente accade, sì, all'interno del bilancio dello Stato. Ho capito, ma Renzi che dovrebbe fare? Cioè, dovrebbe dire: cari tecnocrati, i soldi li ho, punto. E però sono questi, cioè li deve fare vedere. 800 miliardi di spesa pubblica l'anno, se spesi correttamente, questo paese davanti alla Germania, davanti agli Stati Uniti, davanti a tutti. Bisogna combattere corruzione e evasione fiscale insieme, ma non per buttare i soldi nel pozzo sede di San Patrizio della spesa pubblica, ma per razionalizzare tutto quanto. Guardi, sulla questione della spesa pubblica, tra l'altro, tra un attimo ci torniamo, perché Alesina e Giavazzi oggi sul Corriere della Sera danno una ricetta molto semplice. Vorrei però coinvolgere Paolo Ferrero. Ferrero, lei è uno appassionato di questo dibattito, tagliare l'IRAP o tagliare l'IRPEF, oppure dice meglio tagliare le tasse? Qual è la sua posizione? Ferrero, dobbiamo ripristinare la linea con Paolo Ferrero, forse è caduta la linea. Allora, Versace, le chiedo subito questo sulla questione della spesa pubblica. Oggi Alesina e Giavazzi sul Corriere scrivono: Renzi deve ribaltare il metodo, sbaglia se chiede ai ministri e ai funzionari dove tagliare e poi agire di conseguenza, perché gli diranno sempre che non si può tagliare nulla. Esatto. Deve invece fare così: io voglio tagliare di 10 miliardi, 20 miliardi e ordino di tagliare la spesa pubblica della cifra che io vi impongo. Sono d'accordo con Alessine Giavazzi, perché altrimenti viene preso per i fondelli. Se vogliamo, siccome si può e si deve, il costo della politica diretto è stato calcolato in 24 miliardi. Palazzo Quirinale costa molto di più della monarchia inglese, mi pare 20 volte. Palazzo Chigi costa una cifra folle. Il Parlamento è fuori misura. La Corte Costituzionale, io presento un progetto di legge, abbiamo 15 giudici costituzionali, i quali tra l'altro molto scorrettamente hanno fatto in maniera ogni volta di diventare tutti presidente, chi si eleggeva presidente quello che stava per finire il mandato, per avere dei privilegi assurdi. L'automobile H24 piuttosto che la segreteria tutta la vita. Riduciamoli a 9, una riduzione del 40% del costo, 9 giudici costituzionali, basta, ne avanza. Aboliamo il PNL, aboliamo il TAR e la corte, il Consiglio di Stato e tutto la magistratura. Beh, addirittura TAR e Consiglio di Stato, e poi chi fa i ricorsi? Non si fanno i ricorsi, si va alla giustizia ordinaria, rendendola efficiente, efficace e veloce, tanto ci vuole niente, la metti online, cioè nei paesi civili si fa la prima notifica, non si va più a notificare dopo, uno fatta la prima notifica per un processo, poi... Quindi comunque la sua ricetta dice, deve dire così, Renzi deve dire, io voglio tagliare di 20 miliardi, tagliatemi... 20 miliardi l'anno per 5 anni, significa praticamente che può tagliare di 100, alla fine arriva un taglio a portare la spesa pubblica. 100 miliardi della spesa pubblica. Allora, Ferrero, abbiamo ripristinato la linea, abbiamo avuto un problema di collegamento, eccoci qua. Le chiedo, lei è appassionata a questo dibattito, tagliare l'IRAP o tagliare l'IRPEF, come farebbe? Ci sono i soldi poi, tra l'altro, secondo lei? Ma sul fatto se i soldi ci sono a disposizione del governo oppure no, questo non lo so, e lo vedremo dopo che Renzi avrà presentato i conti. Invece su che cosa fare, a me pare evidente che è necessario tagliare l'IRPEF, perché il problema è quello di abbattere le tasse per i lavoratori in modo da aumentare lo stipendio dei lavoratori, perché la crisi italiana è dovuta tutta oramai al crollo dei consumi interni, e quindi aumentare gli stipendi, le pensioni è un punto decisivo per poter uscire dalla crisi. Ma su questo sarà contento? Pare che Renzi vada in quella direzione. Vediamo anche da dove li prende, perché a seconda da dove prende i soldi di nuovo andrà a colpire o i privilegi oppure invece i servizi per la povera gente. Non è che la stessa cosa tagliare uno stipendio di un manager di un ASL, cosa su cui sarei d'accordo, o chiudere un ambulatorio. Sono due cose diverse, la prima buona, la seconda cattiva, quindi vediamo da dove li prende. Aggiungo questo, anche se fossero 10 miliardi non sono sufficienti, perché la quantità di soldi che in questi anni è passata dagli stipendi dei lavoratori e dalle pensioni verso le rendite e i profitti, cioè verso i ricchi, è enormemente più alta, e quindi io penso che vada aggiunta una tassa patrimoniale sulle grandi ricchezze per far pagare i ricchi e usare quella leva per fare un reddito sociale per i disoccupati e appunto per aumentare stipendi e pensioni basse. Quindi 10 miliardi la base, ma tassa patrimoniale. Torniamo a bomba su questo tema, sul quale Santo Versace, lei da imprenditore, immagino che sulla patrimoniale storcerà un po' il naso. Io sulla patrimoniale potrei essere anche d'accordo, ma dopo aver sistemato i conti dello Stato, dopo aver ridotto gli sprechi, le ruberie o d'altro. Insisto, se la politica costa direttamente 24 miliardi e con gli sperperi arriva a 80-100, l'ha scritto anche Luca Ricolfi su Panorama facendo il discorso di tutte le società che fanno capo a comuni, province, regioni o d'altro. Io sono d'accordo, la patrimoniale deve arrivare in fondo, dopo aver sistemato lo Stato, dopo aver tagliato gli sprechi e le ruberie, dopo aver ridotto i costi della politica da 24 a 2 miliardi, dopo aver abolito le auto blu. I soldi per chi ha redditi bassi, sono d'accordo, vanno trovati, non 10, 30, forse, 40 forse miliardi, lei dice a quel punto si possono trovare, a quel punto forse non sarebbe neanche più necessario, va bene anche, no, ma può anche esserci per abbattere il debito pubblico, potrebbe non essere necessaria sicuramente, che se noi razionalizziamo la spesa pubblica e usiamo bene il concetto è semplice. Chi tocca il denaro pubblico male va trattato come i mafiosi. Noi non abbiamo la legge anticorruzione seria. Se volessimo coprire quel paese del terzo mondo per dire che sono gli Stati Uniti, loro hanno anche gli agenti provocatori per vedere chi è corrotto. E sull'evasione fiscale il signor Al Capone non è andato in galera per i 200 e passo omicidi, ma per evasione fiscale. Ma è chiaro, questa frase è molto forte ma efficace: chi tocca male, chi usa male il denaro pubblico andrebbe trattato come i mafiosi. Paolo Ferrero, chiedo anche a lei quello che oggi Alesina e Giavazzi scrivono, cioè basta chiedere ai tecnici cosa si può tagliare e poi tagliare in base a quello che i tecnici dicono, perché diranno sempre che non c'è niente da tagliare. Renzi deve imporre una cifra e dire: ok, 20 miliardi la spesa pubblica, adesso mi trovate voi dove tagliare, partendo dunque da un presupposto che ordina lui la cifra. Le piace come discorso, Ferrero? Ma intanto bisogna che la politica invece veda dove tagliare, perché sono scelte che cosa si taglia, una scelta politica quanto mai importante. Vorrei però tornare sulla questione posta, perché si dice sempre la patrimoniale sì ma dopo, la patrimoniale sì ma dopo. In realtà semplicemente i ricchi la patrimoniale non la vogliono e continuano a dire che c'è tanto altro da fare, purché non vengano toccati loro. La cosa vergognosa è che in Italia il 10% più ricco in questi anni di crisi si è arricchito, e allora bisogna che quei signori lì che vivono come Marchion, che guadagna 5-6 milioni l'anno mentre i suoi dipendenti guadagnano 1.000-1.200 euro, quei signori lì devono pagare di più. Si chiama giustizia sociale ed è all'origine della crisi. Cioè, glielo dica, questa non so, è la cosa che Versace non ci sente, esatto, perché lui è ricco e difende la sua ricchezza e i suoi privilegi. È questa la questione. Ferrero, volevo chiedere, ho visto che Versace, l'ascolta, è un imprenditore che sicuramente non ha bisogno, non vive, ma io diciamo. Voglio far riflettere Ferrero su una cosa. Io per quanto riguarda l'IMU è stato ridicolo, perché l'IMU o la tassazione sugli immobili, ovviamente tenendo conto un'esenzione per i redditi bassi, perché è una sola casa piccola, perché se una è una casa di 1000 metri quadri paga pure, sì. L'IMU è una tassa patrimoniale, toccare gli immobili, e io condivido di tassare gli immobili per tassare meno il lavoro e le imprese, per dare più competitività, ma Ferrero deve prima riflettere su quanto realmente costa la politica, perché se noi razionalizziamo la politica, la patrimoniale si deve fare per abbattere il debito pubblico, non si può fare per aumentare l'età, sì, però pubblica. Scusi Versace, questo io, magari no, io voglio dire che Ferrero rifletta che su 800 miliardi di spesa pubblica sono 24 i costi diretti della politica e circa 100 con gli indiretti. È vero o no? Se c'è questo, perché non dobbiamo operare? No, ma su questo poi Ferrero le risponde, però risponda lei Ferrero le fa un'accusa specifica e personale a dire: lei fa parte dei ricchi e quindi la patrimoniale non la vuole, perché io ti dico sull'IMU, che è una patrimoniale, sono stato favorevolissimo e non ero d'accordo per abbattere l'IMU sulla prima casa, salvo i redditi bassi e minimi, quelli che vanno realmente guadagni. Quindi è la patrimoniale, ma io voglio capire perché la patrimoniale sono d'accordo, però prima voglio che lo Stato dimostri di spendere bene i soldi, perché se li deve buttare e bruciare come ha fatto in questi anni con le regioni, che sono associazioni criminali di stampo politico, con le province, comuni e compagnia, che spendono e spandono, in molti casi rubano dalla mattina alla sera, e abbiamo casi evidenti ma da tutte le parti, questo non mi va. Prima voglio che lo Stato sia serio, prima questo insieme, però almeno, il dire insieme, non sono contro la patrimonio, insomma, Ferrero, però la questione è questa, cioè Versace dice Versace dice non sono contrario, poi per lei il dire il poi prima si fa una cosa poi l'altra è come dire un rimandare per non farlo, però stiamo Ferrero a quello che dice Versace, ci dice che invece è favorevole anche alla patrimoniale. Sì, ma questa è la presa in giro, perché tutti rispetto alla patrimoniale sulle grandi ricchezze, sottolineo, cioè far pagare i ricchi, non c'è nessuno che è in grado di dire sono contrario, tutti dicono sì va bene ma, e non si fa mai, questo è il problema, è un modo di mentire sapendo di mentire, cioè che si dice di sì ma è per fare no. E aggiungo anche Versace un'altra questione, visto che immagino che la polemica sulla politica appunto si allarga, io sono sul tram in questo momento a Torino, perché sto andando a lavorare in Regione Piemonte, dove lavoro a part time per 600 euro al mese. La politica non è tutta uguale, c'è fatta da chi ha le auto blu, le scorte e tutto il resto, magari senza averne bisogno, e c'è anche fatta da chi fa politica, e nella mia parte politica sono sicuramente la stragrande maggioranza, andando a lavorare facendolo nel tempo libero. Allora io consiglierei a Versace di essere un po' più cauto su questo, sì, perché ci sono molti ladri e forse lui ne conosce tanti, e c'è anche la gente che invece fa politica per provare a cambiare le cose. Forse ne conosce tanti, in che senso? Non so, dice, ho visto da quando è iniziato stamattina che parla di ladri nelle pubbliche amministrazioni, forse ne conosce tanti, non lo so. Io devo dire, tutti quelli che ho visto, se li ho scoperti dalle inchieste della magistratura, e penso che se uno ne conosce tanti di ladri farebbe bene a denunciare. Va bene, tanto ripartiamo dopo la pubblicità. Ma lei, Ferrero, vive con 600 euro al mese, quindi... No, ho detto part-time, sono part-time in regione, 18 ore, 600 euro, part-time di Fondazione Comunista, e il tutto fa 1700 euro. 1700 euro, quindi vive, questo è il suo stipendio, non ha vitalizi, non... No, non ho vitalizi perché quando divenni deputato, io ho fatto il deputato nella mia vita un mese, dopo un mese ho dato le dimissioni quando sono diventato ministro. Sono stato ministro senza fare il deputato, forse l'unico assieme a Patrizio Sentinelli nella storia della Repubblica, e il ministro non dà luogo a deputato, a vitalizio, quindi non ho, 1700 euro al soldi. Mese. No, va bene, ma questo la ringrazio per avercelo detto con chiarezza. 24 mattino. Eccoci alle 8:39 minuti, siamo ancora con Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, e Santo Versace, presidente di Fare per fermare il declino. Allora, Versace, ne conosce tanti lei di ladri, visto che dice Ferrero? Ma guardi, io lo leggo sui giornali dalla mattina alla sera, tutti i consigli regionali. Poi chiaramente non faccio né il magistrato né il poliziotto, perché praticamente non tocca a me denunciarli. Ci abbiamo 500.000 uomini tra polizia, carabinieri, forze dell'ordine. Abbiamo tanti magistrati, tocca a loro lavorare, punto primo. Comunque vorrei ricordare che i tedeschi, che in questo momento marciano a mille e non hanno disoccupazione, hanno dei servizi splendidi. Nel 2000, quando si trattò di rilanciare la Germania, tagliarono del 10% la spesa pubblica, con intelligenza d'altro, ed hanno rilanciato il paese, perché... sperperare denaro pubblico, io forse non ci siamo capiti, o Ferrero non ha capito bene quello che dico. Io sto parlando di andare a toccare tutto quello che c'è di sbagliato, e all'interno del bilancio, io ci sono stato 5 anni in Parlamento, l'ho studiato a fondo, prima l'avevo studiato meno perché faccio altre cose, però adesso mi sono appassionato a seguirlo perfettamente, e ci sono dentro tanti di quei soldi recuperabili che, per risolvere quei problemi che dice Ferrero, di dare 30-40 miliardi a chi non sta bene, ci sono dentro il bilancio. Ci sono, non basta, ci sono. Spendere bene i soldi, troppi ce n'è, questo è chiaro. Poi possiamo fare anche la patrimoniale, però prima, con 800 miliardi di spesa pubblica, ci sono i mezzi per dare, per fare in maniera che... No, ma è chiaro, lei dice la ricetta è lì, Ferrero, sono da lì da recuperare i soldi. Ma intanto, Ferrero, le chiedo, essere ricco non è un delitto per lei, come ci chiede via Samuel? No, non è un delitto, infatti non ho proposto di mettere in galera. Ho semplicemente detto ho detto che gli va tolta una parte della ricchezza, perché i ricchi sono diventati troppo ricchi. Cioè, la gente forse non se ne rende più conto, ma negli anni 50 Valletta, sono qua davanti alla Fiat Mirafiori in questo momento, guadagnava 10-15 volte quello che guadagnava un operaio. Adesso Marchionne guadagna 1000 volte quello che guadagna un operaio. Le differenze sociali sono diventate enormi. Io penso che lo Stato debba servire a ridurre queste differenze in modo da avere le risorse per sostenere i più deboli. Secondo, io sono d'accordo con Versace che bisogna tagliare gli sprechi. Per me non mi troverà mai, né mi avrà mai trovato a dire di no. Vogliamo dimezzare il costo del Quirinale, io sono d'accordo, vogliamo ridurre gli stipendi degli alti papaveri, dei burocrati dello Stato, dei parlamentari, io sono totalmente d'accordo, quindi non è su questo il dissenso con Versace. Però se si tratta di chiudere un ospedale per razionalizzarlo, questo no, di principio. Dipende cosa vuol dire razionalizzare, perché se, come succede, si chiude l'ospedale e poi non c'è più nessun presidio sul territorio, e capita, come è successo in Piemonte, che una bambina muoia perché fa più di 200 chilometri in ambulanza e deve girare 3 pronti soccorsi. Vabbè, io penso che quella non è ma questo chiaramente, Ferrero, sarà un caso limite di cui mi dispiace, capito, moltissimo, però così in Italia ognuno ha avuto il suo orticello, ogni politica ha coltivato il suo ospedale, ogni politica ha avuto il suo aeroporto, perché bisogna presidiare il territorio. Come lei sa, diciamo, noi siamo sempre stati contrari alla proliferazione degli aeroporti a 50 km l'uno dall'altro e tutto il resto. La sanità è una cosa un po' diversa, così come è una cosa un po' diversa l'istruzione, perché le scuole, se si chiudono, poi la gente diventa un problema. Quindi il problema per me è che che non bisogna dire prima si fanno il taglio degli sprechi e poi la patrimoniale, resto. No, facciamo tutto assieme. Io sì, sono per fare tutto assieme. Sì, qua l'idea, facciamo cosa, tutto però, assieme, però non si fa mai niente in Italia, cioè né l'una o né l'altra. Sono d'accordo con lei, infatti io penso che c'è molto teatro e alla fine le uniche cose che si fanno sono veramente quelle contro i lavoratori. Nelle scorse due o tre anni passati, che cosa si ricorderanno gli italiani? È che hanno aumentato le pensioni fino a 67 anni, questa è l'unica cosa vera, il resto sono chiacchiere. No, ma io devo dire, tra l'altro ci continua ad arrivare sms, avrà il vitalizio? No, non ha il vitalizio Ferrero, il suo stipendio ha incuriosito molto, Ferrero non ci ha spiegato di cosa campa, ma come ha detto, ci ha detto guadagna 1700, no? Questa è la cifra, 1700 euro al mese Ferrero? Sì, adesso se dovessi essere preciso, quest'anno ne ho anche presi meno perché come rifondazione non avevamo i soldi e quindi sto aspettando lo stipendio degli ultimi mesi, ma diciamo si vive con 1.500-2.000 euro al mese, quindi lei dovrebbe essere beneficiato tra l'altro dall'aumento del taglio dell'IRPEF di Renzi, spero di sì, ovviamente. Spero di sì, ma il problema non è Ferrero, perché come ci sono io che vivo con ci sono la maggior parte degli italiani e si badi, io sono tra la parte di lavoratori dipendenti che in fondo guadagna un po' di più della media, perché la media è più bassa, un terzo dei lavoratori sta sotto 1.000 euro al mese, bisogna provarci 6 mesi a vivere con 1.000 euro per avere idea di che cosa vuol dire, cosa vuol dire non andare al ristorante perché non si hanno i soldi per poterci andare. Ma è chiaro, la maggior parte degli italiani fa questo, e credo che sia questo Santo Versace nel salutare. No, sono d'accordo su moltissimo. Io ho letto un libro bellissimo, Vivere in America con meno di $1.000 al mese. Lo so, e però ho detto da lei che giustamente è abituato. I salari minimi devono salire tutti. Sì. Devono salire. Sì, veramente c'è una barriera che non ci dovrebbe essere nessuno sotto i 1.200 euro al mese. Però i soldi ci sono, io insisto su questo fatto, i soldi ci sono per farlo. Ci sono. Versace nel salutare, nel concludere, ha fatto sapere che Matteo Renzi ha anche sfoggiato un capo Versace, no? Quando è andato da Amici. Sì, credo. Più di un capo. Ma anche adesso, cioè i completi che adesso li vedi? Non saranno solo Versace, io spero che siano solo Versace, ma molti capi Versace. Ma quanto può costare un capo di quelli che vediamo al Premier? Ma sai, noi abbiamo diverse linee, io uso molto i capi anche della seconda linea, la Versace Collection, oltre che della prima linea, un abito in seconda nella Versace Collection comincia da 600 euro al pubblico fino a 1.200, quelli della prima linea sono più alti. Certo. Però voglio dire, uno si può vestire Versace completo di tutto, con 700-800 euro, compreso di scarpe, camicia, ovviamente non della prima linea, ma io ho capito, cioè il giubbettino, quello che ha sfoggiato da Amici era Versace, ma anche i completi attuali lei li riconosce? Parecchi di quei completi attuali, parecchi, so per certo che ha diversa roba Versace, quindi lei lo vede. Ma c'è una foto bellissima che è uscita su Repubblica, su Corriere Tutti, quando lui stava per salire in macchina per partire per Palazzo Chigi per Roma, aveva un portabile con tanto di bello scritto Versace, me l'hanno mandato anche via. Che bella pubblicità che le ha fatto, e lei proprio col Premier Track Versace, la potrebbe usare in uno spot. Lui si effettivamente mostra la grinta e la passione che c'ha, e sono d'accordo con Ferrero, partendo dai redditi bassi, aiutando chi soffre, perché questo paese ha una ricchezza tale che non è giusto far soffrire nessuno, su questo mi troverete sempre. Ma ha mai pensato di usarla come uno spot, quella foto di Versace? Ma ha girato già da tutte le parti, su tutti gli online. È già una pubblicità. Non lo facciamo questo, però l'avete fatto voi giornali. È chiaro, con la foto. Va bene, vi ringrazio. Grazie a Santo Versace, presidente di Fare per fermare il declino, e a Paolo Ferrero di Fondazione Comunista. Dopo il traffico, sono subito, ma la voglio già salutare, dall'onorevole Giuditta Pini del Partito Democratico. Buongiorno, onorevole Pini. Buongiorno. Lei con lei è una giovanissima deputata, quanti anni ha, si può dire? 29, è diventata anche famosa perché ha dei tweet urticanti, l'ultimo insomma è stato quello sulle quote rosa, tema di cui voglio parlare tra un attimo dopo il traffico, sono da lei. eccoci qui allora con l'onorevole Giuditta Pini. Allora, succede in politica che uno si può battere per dei principi, si può... e poi, cara onorevole Pini, arriva la notorietà magari per qualche giorno per alcuni gesti come il tweet che lei ha fatto, una provocazione ovviamente, io l'ho trovata simpaticissima, mi sono sganasciato dalle risate, devo dire. Lei ha twittato dopo la bocciatura degli emendamenti col voto segreto alla parità di genere nella legge elettorale, che lo spirito di Lorena Bobbitt accompagni tutti i colleghi maschi che hanno... No, Lorena Bobbitt sappiamo cosa ha fatto, no? Onorevole Pini. Sì, era questa notte nei sogni, quindi era, come posso dire, che possono a un periodo. Che possono avere degli incubi, che Lorena, esatto, Bobbitt, esatto, che sappia, che ricordiamo ha evirato il marito. Vabbè, al di là di come la dobbiamo derubricare questa cosa, con una battuta? Sì, è stata una battuta per insomma esprimere un dispiacere, un disappunto molto forte, ma d'altronde i miei colleghi l'hanno presa con un sorriso, quindi insomma credo che possiamo derubricarla subito. Abbattuta. La cosa invece che l'ha fatta arrabbiare veramente, questo, è la questione delle quote rosa. Ma sai che però le persone dicono, ma insomma, si è votato, cioè c'è stato uno scrutinio, certo segreto, ci sono stati franchi tiratori, vabbè, questi sono dibattiti politici, ma no, democraticamente si è votato e il Parlamento ha votato di no. No, infatti no, questo è verissimo, anzi, di più, io non mi chiamo neanche franchi tiratori in realtà, perché non c'era neanche un'indicazione del gruppo, quindi in realtà c'è proprio stata una responsabilità individuale di ogni singolo parlamentare su questi temi. E è vero, quello poi si permetteranno anche gli ascoltatori di riprovare a presentare il tema, oltre ad altri emendamenti migliorativi, anche in Senato, ecco. Ecco, infatti, lei spera che al Senato si corregga questa cosa, ma intanto mi dica, il giorno dopo, all'interno del PD, i colleghi parlamentari maschi, perché si è parlato molto di franchi tiratori, come li affrontavate? Cioè c'erano occhiatacce, c'erano sguardi, c'erano accuse neanche tanto velate? No, per fortuna non si è creato il clima maschi contro femmine stile elementari, ecco, però insomma diciamo che sicuramente... Insomma, ci sono state un po' di discussioni, però normali, ecco, un po' di chiacchierate, anche concitate, però insomma tutto nella norma. Però il problema è lì, è all'interno del Partito Democratico, cioè questi 100 franchi tiratori che hanno votato contro. No, sicuramente ci sono anche molti di altri partiti, per esempio c'è la Scelta Civica, Forza Italia, probabilmente anche alcuni di sé, insomma poi il voto segreto in realtà su questi temi. Però dopodiché sicuramente c'è stata una grande parte, forse la maggior parte, che era il Partito Democratico. Lei oggi in un'intervista all'Unità dice ogni maschietto ha votato per sé, ma sa che l'accusa che viene fatta però alle parlamentari è di aver fatto un po', di aver cercato di fare la stessa cosa, cioè perpetuare la propria poltrona per la prossima legislatura. In fondo non potrebbe essere ribaltato l'accusa anche su di voi? No, certo, questo sicuramente perché c'è stato un modo di narrare la battaglia, la vicenda sbagliato, per cui è sembrato che non fosse una questione di rappresentanza e di possibilità di accesso anche per le donne istituzioni, ma è sembrato che fosse una questione puramente, insomma, posso dire, personale quasi. E questo è stato perché c'è stato un modo sbagliato anche di raccontarla. Nel senso che il problema non sono solo le quote rose, il problema ha molti problemi in questa legge, ma ci sono anche altri problemi più banali, come il fatto che le donne non abbiano, ancora in Italia hanno molti meno diritti anche sul lavoro. Si pensi per esempio che non tutti i contratti prevedono la maternità, anzi quasi nessuno. Ma infatti, ma quelli, noi ne abbiamo discusso anche il giorno dopo la bocciatura, quella è una battaglia giusta di civiltà, una battaglia da fare, cioè garantire agli uomini e alle donne, e soprattutto alle donne, un maggior accesso al lavoro, garantire gli asili nido, garantire l'accesso a un welfare che aiuti anche a conciliare la famiglia, i figli e il lavoro. Ma cosa c'entra questo con l'imporre per legge la rappresentatività nelle liste? Paradossalmente uno che è probabilmente delle istituzioni in cui ci sono più donne legiferano anche meglio su questi temi, semplicemente perché sono a conoscenza anche di questi temi o hanno canali più diretti con chi rappresenta queste istanze. Sa che però su questo fanno sapere che il 31% di parlamentari sono donne, più che in Francia per esempio, quindi questo è sicuramente un obiettivo che è stato raggiunto grazie al Democratico e non solo questa legislatura, però purtroppo basta vedere per esempio le elezioni in Sardegna o quelle addirittura in Basilicata, dove in Basilicata nessuna donna è stata eletta in consiglio comunale, in consiglio regionale. Quindi in realtà io l'avrei messa transitoria come norma, personalmente. La norma transitoria, questo che vuol dire? Lo spieghi dal punto di vista tecnico? Per esempio per le prossime 2-3 tornate elettorali nazionali, questa regola, e poi dopo quando si abitua all'elettorato, si abituano soprattutto i partiti, più che l'elettorato, si può togliere e lasciare... No, perché il rischio in Italia è che non ci sia niente di più certo di una norma transitoria, no? Che poi in genere succede. Purtroppo sì. Purtroppo succede. Lei ha detto che il PD ha fatto un errore a non dare una dichiarazione di voto, cioè doveva imporre una logica di partito dicendo si vota così? Credo semplicemente che, visto che si trattava di un tema puramente politico, perché si sta trattando di una legge elettorale, e all'interno della legge elettorale di una serie di regole. Quindi è una cosa puramente politica, non si sta parlando di temi etici, ecco. Però sa che poi col voto segreto, tanto poi uno vota come vuole, quindi... Anche sì, il voto segreto è stato richiesto da molti parlamentari di Forza Italia e Fratelli d'Italia, dopodiché però insomma avrei preferito che ci fosse stata una discussione magari prima in gruppo in cui si fosse votato a favore o contro, e poi dopo almeno il Partito Democratico si sapeva che posizione ufficiale aveva su questo tema, perché ufficialmente ha una posizione. Comunque non è stato fatto. Staremo a vedere al Senato. Onorevole Pini, io intanto la ringrazio. Vorrei capire e approfondire che cosa le prende quando lei si mette su Twitter, perché non fu il primo Twitter che ha fatto. Cioè, ha fatto anche quello quando disse: ho preso 5.000, quante preferenze, mi fanno male le mascelle, perché l'accusa era rispondere a chi dice siete qui solo perché avete fatto. Questo è un altro. Se succede quando si mette su Twitter lei? Per altri meriti, no, ecco, ma lei quando è su Twitter che le prende? Perché ha la penna così facile su Twitter e così urticante? Che le suscita Twitter? No, non ci suscita niente, forse semplicemente non mi aspettavo che ci fosse questo riverbero. Però, vabbè, ma lei è una parlamentare, parlamentare della Repubblica. Si contenga, come direbbe Berlusconi. Si contenga. Va bene, intanto la ringrazio. Giuditta Pini, onorevole del Partito Democratico. Credo la trovate su Twitter come Piccola Pini. Andate a vedere perché fa dei tweet davvero al veleno, urticanti. Piccola Pini. Ringrazio tutti, Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi in redazione e l'alpino Peter Bescapè in regia. Noi invece siamo 24 Mattino, ci trovate così su Twitter. Io sono Alino Milan, a domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.